Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo spesso insistito qui a Smart City sulla necessità di avere, diciamo così, uno sguardo di lungo periodo nel momento in cui si progettano le infrastrutture che rendono intelligente la città. A Trento Federico Pedrocchi ha incontrato Clara Pelez, responsabile delle strategie di sviluppo e marketing di Ericsson per l'Europa e il Mediterraneo, che nel suo recente intervento agli ICT Days ha sottolineato in particolare come le maggiori criticità da questo punto di vista riguardino la raccolta dei dati, che saranno moltissimi e di ogni tipo. Sentiamo. Dibattito sulle Smart City agli ICT Days qui a Trento. All'interno di questo dibattito lei ha sottolineato un punto delicato che effettivamente si può correre il rischio di non cogliere in questa grande e continua progettazione di Smart City, che ci porta certamente un dato sorprendente, cioè le tecnologie e questi progetti nuovi mettono insieme dei lampioni che sono una delle cose più antiche, diciamo, tradizionali delle nostre città, e addirittura il problema del trattamento dei dati. Lampioni intelligenti sui quali voi lavorate con dei vostri progetti e trattamento dei dati. Allora, com'è che avviene questa connessione e dove sta il problema? Sì, in realtà quello che stiamo assistendo in questi giorni qui a Trento è come le reti delle comunicazioni e la tecnologia stanno sempre di più dimostrando il beneficio che tutta la società può ottenere da un utilizzo effettivamente combinato di vari settori. Quindi non è solo la tecnologia, non è solo fare applicazioni e servizi nel settore dei trasporti o nel settore della medicina, o come lei diceva, nel settore dell'energia e quindi l'illuminazione intelligente. E come tutti i dati che queste diverse applicazioni e servizi nei diversi settori mettono a disposizione, come possono essere combinati, trattati e messi a disposizione per nuovi servizi ed applicazioni. In particolare, i servizi e le applicazioni che possono mettere a disposizione la rete di sensori che è montata sull'illuminazione o sui pali dell'illuminazione sono diversi, perché io posso raccogliere tutta una serie di informazioni e rendere efficiente tutto il sistema energetico della mia città. Posso raccogliere informazioni che vengono dal traffico e dare informazioni a tutti i cittadini, posso raccogliere altri tipi di informazioni che possono venire dalla gestione del rifiuto, dalla gestione dei parcheggi e mettere tutto. Quindi la sfida qual è in realtà? Non tanto creare applicazioni per i singoli settori, ma gestire con una piattaforma, che è quello che stiamo facendo in collaborazione con una società del Trentino chiamata Algorab, per gestire tutti questi dati in maniera opportuna, una mole gigantesca di dati che alla fine possano essere trattati in maniera sicura. Perché lei qui sottolineava il fatto che quando un lampione comincia a darci informazioni su parcheggi liberi nelle sue vicinanze, cassonetto della spazzatura più o meno pieno, questioni anche che riguardano presenza di popolazione, di gente. Posso ricordare io che c'è un progetto di lampioni intelligenti a San Francisco nel quale il comune ha chiesto alla società che li ha implementati di poter ricevere dai lampioni segnalazioni di spari, quindi anche per la sicurezza. Allora abbiamo dati che vanno a quelli della spazzatura e vanno pure alla polizia. Lei diceva, sottolineava appunto nel dibattito, che o gestiamo questa mole impressionante di dati o se no ci troviamo con una marmellata ingestibile. Esatto, immagino come tanti, che possono nascere tanti piccoli mostri pieni di informazione ma che non sono in grado di diventare i buoni della storia, perché non riescono a comunicare tra di loro. Quindi anche lì la comunicazione non solo tra persone, la comunicazione non solo tra cose tramite i sensori, ma la comunicazione veramente tra i dati. Questa sarà la vera sfida. E per immagini anche come un'infrastruttura come quella dell'illuminazione può offrire anche altri tipi di servizi. Si parla tantissimo di macchine elettriche, addirittura il lampione potrebbe ottenere o montare, diciamo, una ricarica per le macchine elettriche. Le possibilità sono infinite. O questi sistemi di raccolta di informazioni vengono già progettati, vengono già messi in campo, sapendo, no, dove si vuole arrivare, che poi si dovranno gestire questi dati, o se no mi pare capire che vengono fuori parecchi problemi anche di tipo economico, cioè appena fatti vanno riaggiornati, vanno risettati, vanno cambiati. Sì, semplicemente se non si ha la visione, molte volte abbiamo paura di questa parola perché pensiamo che è una cosa troppo futuristica, ma occorre avere una visione di dove potremmo andare a finire, in modo che gli investimenti che tutte le municipalità e tutti noi stiamo facendo abbiano davvero i ritorni che noi speriamo e non che diventino solo un costo o che addirittura diventino obsoleti e non riusciamo nemmeno, diciamo, a prendere quello che di buono invece hanno. Bene, ci fermiamo qui, auguro a voi tutti un buon fine settimana, vi ricordo che potete scriverci a smartcity@radio24.it, mi potete contattare anche su Facebook, mi trovate col mio nome, Maurizio Melis, a voi tutti buon fine settimana ancora una volta, a lunedì.